Giulia Nicolai, Frisbees. Paul, il vecchio numero di Gianni Fontana, non risponde perché ne ha uno nuovo. Spatola è difficile che chiami perché non ha telefono. Dopo che il giornalista ha descritto Pertini e la giovane pattinatrice della Quinta Strada, improvvisamente sotto casa sento pattinare continuamente. È pertinente? O è perché è ritornata la primavera? E pensare che quel balcone lo vedo tutte le volte che guardo fuori dalla finestra, ma non mi volto, faccio finta di niente. Ti ha visto? Gli chiedo. Era sul balcone, non credo, mi risponde. Pensiamo al cervello come a una prugna secca, immergiamolo in Bach, si gonfia e pulsa come una spugna. Una delle ragioni per cui da ragazza ho fatto la fotografa è anche quella di essere sempre dietro la macchina fotografica e mai davanti. Infatti, chi fotografa non viene quasi mai fotografato. Non allo specchio, ma nelle fotografie che mi ritraevano, distinguevo la paura sul mio volto.